in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani. Per due giorni i quotidiani non sono stati in edicola, quindi come potete immaginare si deve un po' trovare un compromesso, un equilibrio tra magari dare delle notizie che tutti noi abbiamo comunque magari sentito in televisione, su internet, naturalmente. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica. Mi ero dimenticata di segnalare che appunto per questa anomalia di due giorni senza quotidiani in edicola, oggi con il Corriere della Sera c'è anche Io Donna, che normalmente viene allegato al sabato. La copertina è dedicata a Carey Mulligan, questa attrice americana, forse la ricorderete come coprotagonista insieme a Leonardo DiCaprio della versione di qualche anno fa del Grande Gatsby. Il titolo dell'intervista è "La realtà non è mai in bianco e nero", ma vi segnalo dall'interno un bellissimo, anche se naturalmente doloroso, articolo di Cristina Lacava intitolato "L'anno più difficile per i disabili". Il 2020 è stato duro per tutti i bambini e i ragazzi, ma per i più fragili il doppio, perché con loro la didattica a distanza non funziona e la solitudine si fa sentire. Le associazioni però non si sono perse d'animo e alcune scuole si sono organizzate per garantire l'inclusione. A volte basta abbattere un muro per permettere a una bambina di fare colazione. E trovate questo bell'articolo di Cristina Lacava, insieme naturalmente anche a tanti altri temi che hanno riguardato il 2020 e che in prospettiva riguarderanno il 2021, su Io Donne, edicola oggi col Corriere della Sera. Avvenire, eppure è storia d'amore, questo è il titolo, e naturalmente il riferimento è alle parole di Papa Francesco. Il Papa: Gesù è nel volto dei poveri, l'appello per i bambini che soffrono in Medio Oriente e nel mondo. E poi l'avrete sentite forse le parole di Papa Francesco: nemmeno all'inizio del cristianesimo i cristiani furono così perseguitati. E in Nigeria, tra l'altro, Boko Haram, il locale gruppo più importante di jihadismo, attacca 11 vittime, una chiesa in fiamme. Poi dalla prima pagina dell'Avvenire anche il tema Brexit, l'addio di Londra sacrifica Erasmus, e poi il giorno del vaccino nell'Unione Europea è un riferimento al fatto che, alla luce dei dati, degli ultimi dati sul numero di contagi, sul numero di persone che sono morte per il Covid e anche naturalmente il tasso di contagio, potrebbe essere rimandato la riapertura delle piste da sci. Il Fatto Quotidiano, qui apre su un'intervista a Clementi, che dice sulla cosiddetta variante inglese del virus: variante inglese, questo è un virgolettato, tutti asintomatici. Il Giornale: soldati e carabinieri antivirus d'Italia, vaccini, operazione appunto vaccini, grazie ai militari oggi inizia la profilassi, ecco come. E poi un riferimento a questa, di nuovo appunto, il numero dei casi in Veneto, boom di casi, e poi anche qui il tema del possibile slittamento della riapertura della stagione sciistica. Anche il Giornale mette in prima pagina questo ritrovamento, l'ultima meraviglia di Pompei, con due articoli di Luigi Mascheroni e Luca Nannipieri a pagina 18. Libero: il vaccino c'è ma è poco, non basta neanche per iniziare, via le iniezioni cominciano i problemi. Il Lazio denuncia che le consegne sono in ritardo. Noi abbiamo solo 10.000 dosi, questa è la primissima, potremmo dire, polemica sull'inizio della vaccinazione, che sapete la Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen aveva appunto voluto che iniziasse per tutti lo stesso giorno. Quindi 10.000 dosi in Italia, 150.000 della Germania, 350.000 della Spagna. Due le foto della prima pagina, e questa è l'altra grande dichiarazione dei giorni scorsi che mi ha molto colpito. Grande quasi rendergli omaggio. Comunque, riguarda Beppe Grillo, che ha fatto uno dei suoi post su Facebook ironizzando pesantemente sui vaccini. Ricorderete che sicuramente all'interno del Movimento 5 Stelle, specie quando era ai suoi livelli più alti, sapete che ha avuto alle ultime elezioni oltre il 30% dei voti, adesso i sondaggi lo danno circa al 12%, E tra i Movimento 5 Stelle ci sono anche un numero cospicuo di Novax, ricorderete anche la parlamentare che poi è uscita dal Movimento 5 Stelle, ha ribadito in una manifestazione a Roma che è un rischio maggiore essere colpiti da un asteroide, si è presentata a quella manifestazione con un caschetto anti-asteroide. Ecco, Grillo ieri, e ne parla Renato Farina in prima pagina e poi a pagina 4 su Libero, ha fatto questo post ironico dicendo che aspetta tutti i vaccini, che se li inoculerà tutti nello stesso giorno con la stessa siringa. Che ridere, veramente che ridere. E giustamente appunto Renato Farina dice: Grillo contro l'anti-Covid, cioè il vaccino, peccato per chi lo ascolta. E poi l'altra notizia invece, l'altra foto è di Lapo Elkan, che ha donato 450.000 euro ai poveri, e anche a lui è toccata un po' di gogna mediatica sui social, e Gianluca Veneziani in questo caso riassume: Lapo dà 450.000 euro ai poveri e viene sgridato, guai a chi non nasconde i propri gesti. E a pagina 4 salta fuori di nuovo Eder Parisi, perché insieme appunto a Beppe Grillo, fondatore, cofondatore del Movimento 5 Stelle, che ironizza contro il vaccino, c'è anche giustamente richiamata l'altra dichiarazione, quella di Eder Parisi, che dice che lei non si vaccinerà perché il vaccino è rischioso. La Verità: le mascherine di Arcuri, 4 milioni a un pluridenunciato per truffa. La Verità continua a indagare sugli affari, quelli che La Verità definisce gli affari intorno al commissario straordinario per l'emergenza coronavirus. Sappiamo che anche commissario straordinario per l'Ilva, e parliamo naturalmente di Domenico Arcuri, Mario Benotti appunto è indagato per le forniture, segnalò via mail l'ecuadoriano Jorge Solis, il cui avvocato dice: i contatti in Cina suoi e mediatore di tutto, doveva aprire un cannabis shop, e gli arrivano 3,8 milioni di euro. Questa inchiesta la trovate appunto sulla Verità. E poi un approfondimento sempre richiamato sulla Verità, quasi nessuno se lo ricorda sulle prime pagine, tranne il Sole 24 Ore, a questo punto La Verità, che appunto oggi in Parlamento c'è l'esame della legge di bilancio. Cartelle e affitti, la manovra è un flagello, l'elemosina dei ristori spazzata via dalla follia della legge di bilancio che il Parlamento subirà passivamente in queste ore. Va sottolineato infatti che mai era successo che la legge di bilancio, che deve essere per forza approvata entro l'ultimo giorno dell'anno, pena l'esercizio provvisorio, quindi con forti limitazioni allo spazio di manovra del governo e delle istituzioni, deve essere approvata entro il 31 di gennaio, e non era mai successo che si arrivasse al 31 di dicembre, scusate, non era mai successo che si arrivasse al 27 di dicembre. Domani il quotidiano uscito per la prima volta il 14 settembre di quest'anno, quindi una nuova nascita del 2020, come sempre in prima pagina due articoli, uno del direttore Stefano Feltri, l'arrivo del vaccino non cancella il pericolo, e poi una inchiesta di Giovanni Tizian, cosa succede davvero in Libia, torture e ricatti, ecco come si arricchiscono i trafficanti. E Giovanni Tizian ha seguito un processo a Palermo, dove due giovani bengalesi hanno ricostruito il business globale della tratta dei migranti, che coinvolge organizzazioni criminali ma anche militari e istituzioni. Il manifesto Vax Pensiero, quindi naturalmente il pensiero in realtà corre all'aria, va pensiero di Giuseppe Verdi, ma al di là del gioco di parole, oggi in Europa e in Italia il V-Day, il vaccino è arrivato allo Spallanzani di Roma, l'obiettivo ora è di somministrarlo al personale sanitario, in tutto questo significa 1,4 milioni di persone, e a 570.000 tra medici e ospiti dell'RSA. Ma il manifesto ricorda: il tasso di positività rimane alto, il 12,8%. Il Foglio, l'edizione del weekend, che anche in questo caso normalmente esce al sabato e quindi, come dicevamo, non poteva essere in edicola, ma lo trovate in edicola oggi, L'approfondimento è il grande scisma della Chiesa, celibato sacerdotale, ruolo delle donne, morale e dottrina. Il sinodo tedesco voluto dai vescovi tedeschi non si ferma neanche davanti agli avvertimenti del Papa, sempre più preoccupato. L'unità cattolica, secondo questa inchiesta di Matteo Mazzuzzi, che è esperto di questi temi e scrive per il Foglio dal 2011, dice: l'inchiesta su una catastrofe annunciata. E poi, come ogni sabato, invece viene allegato al Foglio anche il Foglio Sportivo e un approfondimento, insomma, sulla Premier League, che, come sapete, l'equivalente, insomma, della Serie A inglese. Hanno giocato il Boxing Day, quindi ieri, e poi giocheranno anche il 1° gennaio. Meno male che almeno c'è la Premier League. Serie A impossibile da commentare, pochi calendari sexy in giro, ci salverà il calcio inglese. Ma torniamo sul Sole 24 Ore. Vi dicevo, l'approfondimento con questa novità sulla modifiche del recovery plan: 15,3 miliardi in più ai fondi aggiuntivi, metà alle infrastrutture. E da domani il confronto sul piano trasloca al Ministero dell'Economia. Trovate tutto a pagina 3 del Sole 24 Ore di oggi. Un interessante anche a proposito di tutte le categorie che sono, come dico sempre, insomma, credo che tutti in qualche modo siamo stati colpiti negativamente dalla pandemia, forse chi è riuscito a speculare in borsa, o quelle aziende di quei settori che sono strettamente legati ai beni di necessità necessari durante la pandemia. Però c'è naturalmente il tema dei professionisti, e in particolare dei professionisti senza albo. E quindi Matteo Prioschi, a pagina 5, ci racconta: arriva l'aiuto da 250 a 800 euro per i professionisti senza albo. Nella legge di bilancio l'ISCRO, questa misura sperimentale dal 2021 al 2023, sarà erogata dall'INPS alle partite IVA iscritte nella gestione separata. E poi un'intervista di Maria Carla De Cesari, che è responsabile al Sole 24 Ore della sezione norme e tributi, a Stefano Di Stilli, presidente della Cassa Dottori Commercialisti: il sostegno al reddito deve essere finanziato con la fiscalità generale. E poi vi segnalo questo interessantissimo inserto che trovate oggi con il Sole, all'interno del Sole, che si intitola 2021, l'anno della speranza, con contributi di voci davvero autorevoli dell'economia mondiale. Il pezzo principale di Joseph Stiglitz, che è premio Nobel per l'economia ed è professore anche alla Columbia University, nonché capo economista del Roosevelt Institute, che dice: per la ripresa degli Stati Uniti e dell'Unione Europea occorre trovare programmi più solidi. L'anno che verrà, il ruolo di Joe Biden, presidente eletto, si insedierà ufficialmente il 20 di gennaio, decisivo per invertire la rotta sulla cooperazione internazionale, mentre il Recovery Fund, secondo Stiglitz, ancora non basta, sarà necessaria più coesione. Noi ci lasciamo un attimo però per un aggiornamento sulla mobilità. In primo piano. Rieccoci, e ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Vi dicevo, queste quattro pagine, l'anno della speranza, due interventi importanti, quello di Joseph Stiglitz ma anche di Jared Diamond, che sapete autore di questi libri bellissimi, secondo me interessantissimi, ricchissimi e anche complessi, ovviamente, sulla storia del mondo. E il titolo del suo intervento è: Covid-19, l'occasione per imparare a vincere le grandi sfide globali. Ma nelle pagine 2 e 3 di questo inserto anche interventi di colleghi del Sole 24 Ore, che tutti nelle loro competenze parlano di altri aspetti. Francesca Cerati, per esempio, della ricerca medica, gli scenari della corsa al vaccino, perché sapete che, come ha scritto anche Molinari sulla Stampa, questo nuovo paradigma scientifico e geopolitico, perché due vaccini sono già stati approvati, altri soltanto per quanto riguarda, diciamo, Stati Uniti e Europa. Poi sappiamo anche che ci sono quello russo Sputnik, ma anche quelli cinesi, che già vengono distribuiti in Africa. Si calcola in questo momento che già 3,8 milioni di persone nel mondo siano state vaccinate, 1 milione negli Stati Uniti, i restanti 2,8 milioni in altri paesi del mondo. Quindi questo tema dei vaccini. E poi Marzio Bartoloni, che si focalizza sul sistema sanitario da ripensare partendo dal territorio. E poi Francesca Barbieri, che parla di smart working, terremoto destinato a stravolgere le regole, E ancora Pierangelo Soldavini, transazioni immateriali per acquisti senza attrito, il tema dei pagamenti elettronici, e Luca Tremolada che si concentra sulla DAD, la didattica a distanza, sommersi e salvati. Abbiamo visto vantaggi, ma anche non è la panacea di tutto la didattica a distanza. Vi segnalo poi un'inchiesta di Gianni Dragoni, sempre sul Sole 24 Ore, sul cosiddetto Pay Watch, cioè l'osservatorio dei salari, degli stipendi. Donne più guadagni, ma cresce il gap con gli uomini. La classifica delle manager di società quotate più pagate nel 2019. Miuccia Prada, che è co-amministratore delegato insieme al marito Patrizio Bertelli del gruppo Prada, si conferma al primo posto con 12,574 milioni. Seconda Alessandra Gritti, che è di Tamburi Investment Partners, il fondo di investimenti. Terza Alexa di Gedi Laura Cioli. Questo è un tema che è successo, questo è un fatto successo sabato mattina, scusate, negli Stati Uniti, e però sicuramente le indagini sono ancora in corso e dà anche un po' l'idea del clima di tensione che c'è negli Stati Uniti in questi giorni, che separano dal voto per i due senatori della Georgia, due posti vacanti, che sarà il 5 di gennaio, il 6 di gennaio, giorno in cui negli Stati Uniti il Congresso americano confermerà l'elezione di Joe Biden a nuovo presidente. In questo momento è ancora president elect e presidente, il presidente in questo momento che ufficiale è sempre Donald Trump. Quindi clima di tensione. A Nashville c'è stato esploso un camper bomba. Guido Olimpio riassume quello che è successo a pagina 17 del Corriere. Nashville, mistero sul camper bomba, si segue la pista dell'attacco suicida. Anche il Corriere della Sera ha un approfondimento su quello che potrebbe succedere nel 2021, introdotto da Ferruccio De Bortoli, che è stato direttore del Corriere della Sera, adesso editorialista per due volte, ma è stato anche per due volte direttore del Sole 24 Ore, ritornati con i piedi per terra, le cose che abbiamo imparato. E poi una bella intervista a Riccardo Muti, direttore d'orchestra, che dice: a Vienna solo musica, perché sappiamo la prima della Scala del 7 di dicembre è di fatto saltata, è stata sostituita non da un evento con il pubblico ma da un evento diverso trasmesso in televisione, e anche il concerto, un altro appuntamento musicale importante della musica classica naturalmente, il concerto di Capodanno di Vienna. Muti: è il concerto di Capodanno senza pubblico, niente applausi o gag, il nulla è pieno di significato. E poi, sempre a proposito di quello che verrà, lo sport del 2021 e anche le Olimpiadi, che al momento sono confermate, le Olimpiadi di Tokyo, anche se ci sono molte incognite, per esempio il fatto che non si è potuto tenere tutte le qualificazioni per scegliere chi va alle Olimpiadi. E Flavio Vanetti, a pagina 53 del Corriere della Sera, intervista Danilo Gallinari, 32 anni, che giocherà con gli Hawks di Atlanta, e dice, per esempio parla del suo collega Bellinelli, dice: contento, sono felice per lui, anche lui giocherà negli Stati Uniti, l'Olimpiade dipenderà dalla data, a noi giocatori tocca prendere decisioni che non vorremmo mai prendere, perché naturalmente tutti gli atleti dovranno fare delle scelte su quali eventi concentrare le loro energie. La Repubblica, con Raffaella Scuderi, approfondisce questo terribile attentato che c'è stato in Nigeria. Natale di sangue, la furia di Boko Haram contro i villaggi cristiani. Almeno 12 morti, 7 rapiti nel nord del paese, chiese e scuole nel mirino. E invece le pagine di approfondimento della domenica di Repubblica, long form, tutto dedicato agli infermieri, in particolare a un'infermiera, Anna Maria, 37 anni, che è un po' il simbolo di come si svolgono le giornate degli infermieri ai tempi del Covid. La sveglia suona alle 5:35 a casa di Anna Maria, 37 anni, la lunga giornata di uno dei 180.000 infermieri che continuano a combattere in silenzio la guerra contro il Covid. Anch'io sono stata infettata, ma sono ancora qui. Ce la faremo, il suo messaggio. E dalle pagine di Cultura della Repubblica vi segnalo questa lunga recensione di Pietro Citati a un nuovo libro appena uscito per Adelphi, si chiama Oracolo Manuale di Baltasar Gracian, è una raccolta di aforismi, credo insomma che a proposito di necessità, di bussole, di consigli in un tempo di incertezza, forse le raccolte di aforismi se sono ben fatte a qualcuno possono essere utili. Esce la nuova edizione di Oracolo Manuale, una raccolta di frasi brevi amata da Schopenhauer e da Nietzsche. L'autore era un gesuita vissuto nel 600 che ispirò anche Borges. Ecco, sulla stampa c'è un'intervista anche in questo caso a uno scienziato, Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, una bella intervista, occupa quasi tutta la pagina. E sul vaccino dice: è un miracolo scientifico, in 6 mesi risultati tangibili. All'interno un bel riquadro sulle dichiarazioni del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, dove non si capisce dal titolo, questo è molto grave secondo me, che il post è ironico, perché il titolo è: il fondatore del Movimento 5 Stelle imitatemi, e poi appunto ha detto queste piacevolezze, russo, cinese, europeo, americano, li farò tutti insieme in un'unica siringata, e ripeto, che ridere. E però appunto viene questo riquadro, viene messo all'interno di un'intervista serissima a Miozzo, e quasi sullo stesso piano le due dichiarazioni. Vabbè. Un'altra intervista sulla stampa di Carlo Bertini a Goffredo Bettini, che è un esponente del Partito Democratico, nonché pare grande consigliere del segretario del Partito Democratico Zingaretti. E sul tema di Roma, perché sapete, in primavera si voterà per eleggere il nuovo sindaco di Roma o per confermare Virginia Raggi che si è ricandidata, il tema è stato un po' rimescolato, le carte sono state un po' rimescolate, perché Virginia Raggi è stata assolta in appello da una accusa, ne abbiamo parlato settimana scorsa. A questo punto è molto difficile per il PD non appoggiare Virginia Raggi, che naturalmente sarà appoggiata dal suo partito, il Movimento 5 Stelle, e giustamente Carlo Bertini fa una domanda su questo e dice: a Roma alla fine punterete su Calenda, che si è candidato? Calenda una volta apparteneva al PD, ora sapete ha fondato il suo partito che si chiama Azione. E Bettini risponde: non mi occupo di Roma. Calenda è un uomo di notevole intelligenza e capacità di governo, ma spetta anche al PD valutarne la compatibilità politica. C'è ancora troppa asprezza da parte sua. Ve l'ho già segnalata, vi ribadisco, è a pagina 9 del Messaggero l'intervista a Paola De Micheli, ministro dei trasporti: la scuola partirà sicura, più bus e orari scaglionati. E poi forse è la copertina del supplemento della sezione macro dedicata alla cultura del Messaggero, questo approfondimento sul bar Tavola Calda dove si serviva la paella, così scrive Macro a Pompei. Un approfondimento sulla possibile riapertura degli impianti da sci sul giorno. Impianti da sci, la ripartenza rischia di slittare. Perché? Perché è stato il Comitato Tecnico Scientifico, che deve dare un parere, poi spetta al governo decidere, ha bocciato la data del 7 gennaio. Serve ancora cautela. E oltre alla strage in Nigeria, ce n'è stata anche un'altra in questi giorni di blackout dei giornali: strage di donne nella notte di Natale, naufragi e sbarchi in Sicilia e Calabria. Sono triplicati gli sbarchi rispetto allo stesso periodo di un anno fa e gli arrivi sulle nostre coste. La maggior parte delle partenze avviene dalla Tunisia, 38%, da cui sono sbarcate 12.816 persone. E poi un'altra scia di sangue, questa volta in Afghanistan, lo racconta sempre l'Avvenire: Kabul, scia di sangue infinita e caccia spietata agli attivisti. Freshta Kohistani, 29 anni, si batteva per i diritti delle donne, è stata uccisa assieme al fratello, è solo l'ultima vittima di una lunga catena. Il giorno prima era stato assassinato, sempre a Kabul, un avvocato democratico. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Peter Bescapè in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto e per chi ha mandato messaggi. WhatsApp al 349-238-6666. Domani, se vorrete, dopo il GR delle 7, ci risentiamo, perché in questi giorni festivi appunto coprirò quella fascia oraria della rassegna stampa, poi fino alle 9, cioè 24 mattino. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.